arriva. Perché la non è fatta un po' più di che sia la famiglia. Tutto bene. La girella non è stata un po' più di ma non è stata. La figura che si è tenuta a terra e si sta la volta della costituzione. Però non so se si è ora. Gratuito e confidenziale. Per il servizio deve un panel di psicologo a fin di aiuto. Problema personale. Il telefono è collegato al terzo di la voce della notizia. È una sola frequenza. Questo è il 4.910 kHz. La mano è di Giulia. Alla voce la notizia. Sto contando il programma, è il giorno.